البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا buongiorno Palestina, 151esima trasmissione su Radio Wombat. Siamo in preparazione del 25 aprile. Dopo aver assistito alle cariche di agenti in assetti antisommossa al corteo del 12 aprile a Milano e a Gaza il 13, la Domenica delle Palme, al bombardamento con due missili dell'ospedale di Al-Ahli, noto anche come ospedale Battista di Gaza City. Ennesimo crimine contro l'umanità rivendicato dall'esercito israeliano, che come al solito ha affermato, senza darne prova, di aver colpito capi di Hamas. Il 25 aprile dunque si avvicina e nei cortei porteremo numerose bandiere palestinesi che ormai sono diventate per tutti il simbolo della lotta di resistenza ad ogni forma vecchia e nuova di colonialismo. Ai cortei ci saranno anche le rappresentanze delle comunità ebraiche aderenti all'UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, di cui è sempre più difficile sopportare l'assordante silenzio e l'inerzia sul perdurante genocidio a Gaza e sulla pulizia etnica che Israele sta praticando nei territori palestinesi occupati. Diversa è la posizione di quella che possiamo chiamare dissidenza ebraica, minoritaria, ma che raggruppa il meglio dell'ebraismo italiano. Ci riferiamo a LEA, sigla che sta per Laboratorio Ebraico Antirazzista, e a Mai Indifferenti, che già alla vigilia della giornata della memoria si espressero con forza in un convegno a Milano contro le politiche genocidiarie di Israele. Gli occhi saranno infatti puntati su Milano e Roma a causa della solita provocatoria presenza della Brigata Ebraica. Mentre a Firenze la comunità ebraica ha distinto la sua partecipazione mettendo al collo dei partecipanti solo i fazzoletti dei deportati. Sempre riguardo all'ebraismo non allineato, è stato presentato anche a Firenze il volume Antisemita, una parola in ostaggio, di Valentina Pisanti, che il 4 aprile, al termine della presentazione presso il circolo Mario Bencini, ci ha rilasciato una breve intervista. Ai nostri microfoni avremo anche Diego Siragusa, curatore della trilogia Sionismo, il vero nemico degli ebrei, di cui finalmente è uscito il terzo volume. Delle differenze e criticità dei movimenti ebraici negli Stati Uniti e in Italia ce ne parla Sara in un approfondimento in colloquio con Manny, giovane ebreo che vive negli Stati Uniti, del collettivo T-Con, diaspora ebraica decoloniale. Sul piano locale vi informiamo degli interventi da parte di attivisti di Firenze per la Palestina nelle assemblee COOP, assemblee ancora in corso, indette per la discussione del bilancio annuale. In questi interventi è stato denunciato il rifiuto che la dirigenza Coop ha opposto alla richiesta di bandire i prodotti israeliani dai banchi dei negozi, accampando imbarazzate motivazioni, ma di fatto contravvenendo al codice etico della cooperativa. Gli applausi spesso seguiti a tali interventi confermano il sentimento diffuso della necessità di operare contro il genocidio con azioni concrete, secondo le possibilità che ciascuno ha, ma che spesso non si rende conto di avere. Sul nostro blog potrete trovare il link al video di uno di questi interventi. Il 12-13 aprile si è tenuta a Bologna, presso la casa quartiere Katia Bertasi, l'Assemblea nazionale di Assopace Palestina. L'incontro, dal titolo Non c'è altra terra e Vita, terra, libertà per la Palestina, ha avuto come tema il diritto internazionale seppellito sotto le macerie. Oltre a Luisa Morgantini, presidente dell'Associazione Assopace Palestina, sono intervenuti Ghassan Abu Sitta, Chantal Meloni, Ruba Sale, Raffaele Oriani e Francesca Albanese. Tra i tanti progetti è arrivato a conclusione il progetto Sumud con l'8 per 1000 valdese, progetto per l'acquisto di un trattore per Massafra Yacht. Con l'associazione Human Supporters si sono realizzate attività di sostegno psicologico, educativo per i bambini di Nablus. Tra le attività più applaudite, il sostegno all'ospedale di Al-Auda di Gaza, supportato da Assopace Palestina Firenze con la raccolta di oltre 35.000 euro. Un importante progetto in Cisgiordania è quello di cui ci parlerà Carla in un'intervista. Progetto relativo a una campagna per la protezione della popolazione civile palestinese dalle aggressioni dei coloni e dell'esercito israeliano. Il 4 aprile al Circolo Il Progresso, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, sindaci e deputati, è stata letta la lettera al presidente della regione Eugenio Giani perché proceda alla rimozione del console onorario Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Mayer. Ascoltate l'intervista a Jalila sulla situazione a Gaza e la situazione locale. Troverete il link alla lettera a Gianni per la rimozione di Marco Carrai sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. Tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo la rassegna stampa di oggi con un articolo pubblicato su Invicta Palestina dal titolo Rompere il silenzio sulla lotta armata palestinese, un appello alla chiarezza giuridica. L'autore, Ramzi Baroud, parte dalla dichiarazione che l'ambasciatore cinese all'AIA Zhang Yun pronunciò il 22 febbraio 2024 di fronte alla Corte Penale Internazionale, con la quale affermò il diritto del popolo palestinese di resistere con qualsiasi mezzo, inclusa la lotta armata, contro il colonialismo, l'occupazione, l'aggressione, il dominio contro le forze straniere e che questi non dovessero essere considerati atti terroristici. Partendo appunto da questa affermazione, in una intervista a Richard Falk, studioso di diritto internazionale ed ex relatore speciale per le Nazioni Unite per la Palestina, l'autore entra nel merito della legittimità della lotta armata. Falk ricorda che anche nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani viene affermato che si può ricorrere alla lotta armata come ultima risorsa contro la tirannia e l'oppressione, se i diritti umani non sono stati protetti dallo Stato di diritto. In merito all'operazione Diluvio di Al-Aqsa, fa un'affermazione molto netta dicendo che nella misura in cui ci sono prove concrete di atrocità che accompagnano l'attacco del 7 ottobre, queste costituirebbero violazioni, ma l'attacco in sé è qualcosa che nel contesto appare del tutto giustificabile e atteso da tempo. Nell'articolo Adotta il tuo cecchino, gli affari emiliani delle cyberguerra israeliana, pubblicato sul Manifesto, viene riportata una notizia molto interessante sui rapporti economici delle aziende italiane con quelle israeliane. La società italo-israeliana TECAP ha organizzato per il prossimo 22 maggio a Modena un evento dal titolo Zero Trust and Cyber Security Summit 2025, dove incontrerà aziende per far conoscere competenze e tecnologie made in Israel, elaborata da esperti che provengono dalla unità 8200 dell'esercito israeliano, creato per condurre operazioni militari specializzate in guerra cibernetica, spionaggio, sorveglianza e controllo. L'azienda TECAP, che comunque fornisce servizi in ambito civile, è stata cofondata da Alex Peleg, che ha lavorato diversi anni nel Ministero della Difesa israeliana. Le aziende italiane che già usufruiscono della cyberprotezione di questa azienda sono la Florim, la Fenice, azienda di ceramiche, Inalca e altre. Nelle passate edizioni dell'evento sono salite sul palco TECAP anche la Barilla, Dallara e Panini. Tra l'altro, il servizio proposto da TECAP alle aziende italiane è chiamato Adotta il tuo cecchino, con tanto di immagine di un cecchino che spara a dimostrazione di come sia permeato di militarismo anche l'approccio di questa azienda civile. Nell'articolo Le 10 tesi di sinistra per Israele e la verità storica, pubblicato sull'Antidiplomatico, viene riportata l'intervista che Patrizia Cecconi ha fatto all'avvocato e giurista Ugo Giannangeli in merito alle 10 tesi uscite dal congresso di Sinistra per Israele. Giannangeli ha elaborato delle considerazioni su queste tesi e le ha poi inviate al senatore del PD Alfieri, membro di Sinistra per Israele, che però non hanno ricevuto alcuna risposta. Praticamente vengono evidenziate le contraddizioni, omissioni e menzogne riportate in ognuna, mostrando errori anche grossolani dal punto di vista storico. Ad esempio, nella terza tesi compare il riferimento a Hamas, Hezbollah e Houthi, ma si ignora che il diritto internazionale riconosce il diritto alla resistenza a un popolo sotto occupazione come quello palestinese e che la Convenzione di Ginevra del 1949 riconosce il diritto alle popolazioni di un paese occupato di lottare per la liberazione anche con la lotta armata. Nella tesi numero 6 si afferma che non si può identificare Israele con Netanyahu, attribuendo quindi a lui tutte le responsabilità. Ma, come spiega Giannangeli, il progetto sionista è stato perseguito da tutti i governi, anche laburisti, e la colonizzazione e la repressione non si sono mai fermate. Ignorarlo è una forma di manipolazione della realtà. Altra mistificazione emersa al Congresso è criticare il governo israeliano perché non ha impedito le azioni più violente dei coloni, legittimando di fatto con tale critica l'esistenza delle colonie, mentre è l'esistenza stessa delle colonie ad essere illegale. Veniamo all'ultimo articolo dal titolo Testimone chiave degli stupri di massa del 7 ottobre risulta un bugiardo, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese. Rami Davidian è un israeliano che dal 7 ottobre 2023 ha rilasciato decine e decine di interviste ai media di tutto il mondo perché ha sostenuto di aver eroicamente salvato centinaia di persone dai miliziani di Hamas durante l'incursione e di aver visto stupri commessi da questi. la colossale bugia di questo soggetto, che comunque è stata funzionale alla narrazione israeliana per giustificare di fronte all'opinione pubblica il genocidio dei palestinesi, era stata già smascherata qualche mese dopo già da Electronic Intifada. In seguito, poi, vi è stata la smentita anche da parte di un giornalista israeliano, Raviv Drucker, della TV israeliana Channel 13. La sua inchiesta giornalistica però non è stata trasmessa per decisione dei vertici del canale TV. Drucker ha affermato che le storie che Davidian ha raccontato sono tutte inventate e la cosa grave è che sono state citate in un importante documentario, in un importante libro, sui giornali di tutto il mondo ed anche nel rapporto di un gruppo di parlamentari britannici di tutti i partiti. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا Ascoltiamo ora l'intervista di Claudio a Valentina Pisanti al termine della presentazione del suo libro dal titolo Antisemita, una parola in ostaggio, presentato il 4 aprile presso il Circolo Mario Bencini di Firenze. A Valentina Pisanti facciamo una domanda, cioè a proposito della crescita dell'antisemitismo in Italia. I dati che noi abbiamo, che ci vengono comunicati, sono quelli del CEDEC, che indicano un forte aumento dell'antisemitismo in Italia. Ma chiediamo a Pisanti come vengono misurati questi e ritieni che possano essere misurati in modo diverso da come li misura il CEDEC? Il CEDEC ha aderito alla definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, AIRA, definizione la quale fa convergere di fatto l'antisionismo con l'antisemitismo. Ciò comporta una difficoltà nell'acquisizione dei dati sulla curva dell'antisemitismo, perché a questo punto diventa più difficile distinguere tra atti e dichiarazioni tradizionalmente antisemite, quelle che fanno capo allo stereotipo antisemita classico, e atti e azioni che taluni interpretano come antisemite ma che per tal'altri sono semplicemente indicative di un atteggiamento anti-israeliano o anti-sionista. Se si fanno convergere le due categorie non è più possibile misurare la curva di un antisemitismo classico, diciamo, perché viene equiparato a quello che alcuni chiamano il nuovo antisemitismo. Ecco, lo stesso temo che avvenga a livello nazionale per quanto riguarda le considerazioni da parte della Commissione Nazionale, di cui è presidente, diciamo, incaricato il generale Angelo Santo, che il quale fa riferimento, mi pare, solamente ai dati CEDEC e all'UCEI. Sarebbero possibili altri riferimenti oltre a questi? Bisognerebbe appunto scorporare i dati che fanno capo al cosiddetto nuovo antisemitismo, nella cui esistenza io peraltro non credo, con i dati appunto riferiti al tradizionale ricorso a stereotipi antisemiti riconoscibili come tali, che a mio avviso sono quelli che rientrano a pieno titolo nel fenomeno probabilmente in espansione dell'antisemitismo nel mondo contemporaneo. Dico probabilmente in espansione, ma non posso dirlo con certezza numerica perché per l'appunto mi mancano i dati per misurarlo, il che è un problema per coloro che intendono combattere l'antisemitismo. Grazie, Pisanti, buon grazie. Lavoro. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا passiamo ora all'intervista di Claudio a Diego Siragusa, curatore dei tre libri di Alan Hart, dal titolo Sionismo, il vero nemico di Israele. Si tratta di una trilogia e i tre libri avevano questi titoli. Il primo, Il falso messia, il primo volume, il secondo volume David diventa Golia e il terzo volume uscito pochissimi giorni fa La guerra infinita. Il libro è edito dall'editore Zambon. Il secondo libro che portiamo oggi alla vostra attenzione è pubblicato in questi giorni ed è il terzo ed ultimo volume di una serie intitolata, di una trilogia intitolata Sionismo, il vero nemico degli ebrei, di Alan Hart. Si parla evidentemente della storia di Israele. I primi due volumi avevano dei sottotitoli già significativi. Il primo era sottotitolato Il falso messia e il secondo Davide diventa Golia. Il terzo volume ha come sottotitolo La guerra infinita. Dopo l'interesse suscitato dai primi due volumi, Questo terzo volume è stato a lungo atteso, finalmente ora è uscito e di questo vogliamo parlarvi oggi. Anzi, ve ne parlerà Diego Siragusa, che è stato il curatore e il traduttore sia di questo terzo volume che dei due volumi precedenti. Buongiorno Diego, innanzitutto dici chi è Alan Hart, l'autore di questa trilogia? Alan Hart è uno dei più grandi giornalisti investigativi. Lui ha iniziato la sua professione come corrispondente per la BBC e siccome la BBC lo aveva mandato in Medio Oriente dopo avergli fatto un po' il lavaggio del cervello, in senso filo-israeliano, lui, come mi confidò, quando andò in Medio Oriente scoprì che i fatti erano all'opposto e quindi quando cominciò ad essere esplicitamente schierato con la causa palestinese si ruppe il rapporto di collaborazione. Lui dirigeva una rubrica che si chiamava BBC Panorama e quindi passò a lavorare per la Independent Television News, quindi una televisione indipendente, e fu anche un inviato di guerra in Vietnam. Ebbene, di questa sua esperienza sul campo, lui ha prodotto da questa esperienza una biografia di Arafat, che è stata tradotta in italiano, con il titolo Arafat, pacifista o terrorista? E poi ha prodotto la sua opera fondamentale, che è questa trilogia che tu hai illustrato brevemente per gli ascoltatori. Finalmente, ecco. Siamo riusciti ad avere il terzo volume che da tempo io avevo già tradotto e introdotto e adesso l'opera è completa. Ecco, questo terzo volume che periodo copre? Ecco, copre il periodo che va dalla USS Liberty, quindi praticamente dalla guerra dei sei giorni, assassino, lui è morto il 15 gennaio 2018, quindi praticamente fino all'inizio del 2000, quindi quando soprattutto ci fu il tentativo da parte del presidente Clinton di arrivare a una pacificazione tra israeliani e palestinesi con un progetto a cui partecipava il primo ministro Ehud Barak e che fallì proprio perché le condizioni di Israele erano inaccettabili. Questo è il periodo. Ecco, parli di USS Liberty, a che episodio ti riferisci? Mi riferisco a un episodio poco conosciuto e che è una macchia di infamia sulla storia di Israele. Siamo nella guerra dei sei giorni. Nel Mediterraneo, al largo, c'è una nave che intercetta tutti i messaggi che intercorrono nell'aria. Ebbene, la USS Liberty, guarda caso, viene attaccata proprio dall'aviazione israeliana, che uccide 37 marinai, soldati, più ne ferisce circa 150. E quale fu la ragione? La ragione fu che già la USS Liberty erano state intercettate alcune comunicazioni tra piloti israeliani che inchiodavano Israele alle sue responsabilità di paese aggressore, quando tutta la stampa internazionale invece diceva che il povero Israele, piccolo piccolo, era stato aggredito da egiziani, siriani e giordani e eroicamente in sei giorni aveva sgominato tre eserciti, no? Ebbene, bisognava mettere a tacere la USS Liberty. Ebbene, loro si giustificarono dicendo di aver sbagliato, di aver confuso quella nave con una nave egiziana, versione completamente falsa perché la fiancata della nave USS Liberty era chiaramente visibile, la giornata era splendida, non c'era una nuvola e c'era la bandiera americana che sventolava. Ebbene, ebbero la copertura vergognosa del presidente Johnson, che invece avallò questa versione bugiarda, e poi ci fu un ristoro monetario da parte del governo israeliano nei confronti dei parenti delle vittime. Questa è una delle pagine più appassionanti del libro, perché Alan Hart andò negli Stati Uniti a trovare i sopravvissuti della nave, i quali ogni anno si trovano e onorano i loro compagni morti. Alcuni di loro, mi pare un paio, tra cui un ammiraglio, hanno scritto un libro dove difendono la loro versione contro la versione bugiarda del governo israeliano e del governo americano. Alan, mi ricordo, che viaggiava con me in macchina e indossava un giubbotto con i simboli della nave sulla schiena che gli avevano regalato i sopravvissuti della USS Liberty. Quindi Alan Hart aveva rapporti molto stretti con una quantità di persone? Certo, la parte più interessante del libro che risalta è il fatto che lui aveva una frequentazione assidua con i grandi protagonisti della storia medio orientale recente. E lui di questo me ne ha parlato. Ma ne ha parlato pubblicamente mentre giravamo in Sardegna per presentare il primo volume di quest'opera. Aveva un rapporto confidenziale incredibile con Golda Meir, che gli passava praticamente gli scoop giornalistici. Tant'è vero che i ministri di Golda Meir, per invidia, lo chiamavano il fidanzato di Golda. Poi ebbe un rapporto strettissimo con Arafat, a volte viaggiavano in aereo insieme, e con tutta la dirigenza palestinese. Lui intervistò frequentemente Nasser, frequentò il re di Giordania, re Hussein, e così altri protagonisti della vicenda medio orientale. Quindi si tratta di un giornalista investigativo, Quindi le cose che lui racconta in buona parte sono testimonianze dirette. Questa è la bellezza della narrazione, dello stile giornalistico, più che storico, diciamo, di Alan Hart. Quindi immediato, preciso, documentato, con racconti, aneddoti estremamente interessanti di cui lui ci rende edotti. Quindi non è il distacco alla distanza dello storico, ma è un linguaggio completamente diverso, è quello del giornalista che vive ogni giorno una realtà. Certo, naturalmente quando la BBC lo mandò nel Medio Oriente e gli fece il lavaggio del cervello, gli arabi cattivi e gli israeliani buoni. Lui questo lo disse a me quando scoprì che le cose erano esattamente all'opposto, e avendo vissuto il dramma di tutte le guerre e delle ingiustizie contro i palestinesi, lui fu un giornalista schieratissimo con la causa palestinese, ma non a priori, a posteriori, dopo aver conosciuto nei minimi dettagli tutta la vicenda e il dramma della colonizzazione della Palestina. In questo senso, quindi, c'è una partecipazione emotiva, umanissima, da parte di Alan Hart a questo segmento della storia contemporanea, ma nello stesso tempo un grande rigore di documentazione. Ecco, questo terzo volume della trilogia era atteso da molto tempo. Arriviamo al libro e alla sua distribuzione. Dove lo troviamo? Comunque è in distribuzione dappertutto, basta chiederlo o in libreria oppure acquistarlo online, quindi Amazon, IBS, Mondadori, San Paolo Store, Feltrinelli e così via. Io ho una serie di amici che trepidavano nell'attesa di riceverlo e addirittura me lo chiedono direttamente, e in questi giorni ho provveduto a spedirlo a quegli amici che particolarmente lo attendevano da molto tempo. Bene, tra questi ci sarò anch'io. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا Proponiamo adesso un estratto di un'intervista che è stata fatta a Manny, un ragazzo italo-americano che vive ad oggi negli Stati Uniti, a cui abbiamo chiesto di parlare delle differenze e delle criticità dei movimenti ebraici in solidarietà alla Palestina negli Stati Uniti e in Italia. Buongiorno Palestina, sono Sara e siamo qui con Manny, che è attualmente in California, a San Francisco. L'abbiamo contattato per chiedergli di parlare con noi di alcuni temi che ci sembrano particolarmente importanti, quali antisionismo, antisemitismo e movimenti ebraici. Quindi chiederei a Manny di presentarsi velocemente. Comunque ciao, sono Manny, sono nato e cresciuto a Firenze, di origine comunque anche di pratica ebraica. Poi, insomma, ho passato la maggior parte della mia vita stata adulta tra Italia, Stati Uniti, San Francisco principalmente, Londra e un po' a giro, tra cui Messico, un po' di tempo in Palestina, sia qui che in Italia, insomma, alle volte più, alle volte meno attivamente al mondo della solidarietà palestinese. In passato mi interessava meno l'aspetto identitario ebraico, e quindi facevo parte movimento più ampio, recentemente anche frutto appunto ad esempio maggiori strumentalizzazioni, ho trovato importante anche partecipare a collettivi collettive ebraiche, quindi sia in Italia che qui negli Stati Uniti faccio parte appunto di collettivi ebraici che si schierano contro un genocidio, pulizia etnica e sionismo. In virtù di questa tua compresenza fra gli oceani nel movimento di solidarietà per la Palestina, ti chiedo prima di tutto di parlarci delle differenze e delle problematicità che ci sono fra i movimenti ebraici negli Stati Uniti e quello che stanno facendo, a contrasto, a paragone con quelli che sono i movimenti ebraici in Italia, se ci sono, che cosa ne sai, che cosa stanno facendo e portando avanti. Allora, vorrei iniziare un attimo una premessa, nel senso che, prima di tutto, l'esperienza ebraica in Italia, a contrasto degli Stati Uniti, è completamente diversa, sia la natura storica, l'Europa all'interno dell'Europa durante la Shoah, con tutto ciò che ne ha conseguito, e anche poi una media demografica. Gli Stati Uniti hanno il 2,5% della popolazione è di origine comunque ebraica, in Italia siamo lo 0,05%, quindi il rapporto e pertanto anche l'influenza culturale, anche la presenza appunto nella cultura popolare è completamente diversa, e pertanto anche nell'organizzazione politica si manifestano due esperienze molto contrastanti tra di loro, una proprio di pura natura demografica, partendo anche da quella. Detto ciò, vorrei fare un po' un discorso che sembra l'opposto, nel senso, negli Stati Uniti, in Italia, il movimento in solidarietà per la Palestina negli ultimi 50 anni è stato molto più attivo e presente nel, diciamo, movimento di sinistra, chiamalo antagonista, chiamalo centri sociali, chiamalo comunque nel tessuto della conversazione a sinistra rispetto agli Stati Uniti, dove specie dagli anni 70 è stata normalizzata anche in ambienti di sinistra una sorta di implicita solidarietà o simpatia con Israele, o in alternativa era un topic di cui non si parlava più di tanto. Questo, cioè la tragica occasione di questo genocidio e gli ultimi anni di attivismo hanno cambiato questo, nel senso che negli ultimi 10 anni, e in particolare ovviamente negli ultimi 2 anni, c'è stato un ribaltamento, nel senso che sempre più è stata portata all'interno dei menti di sinistra, messa al centro appunto la questione palestinese, il discorso della criticità del sionismo, riportandolo appunto all'interno di analisi antirazziste e decoloniali che già esistevano. Dico questo perché era cosa comune, cioè addirittura un termine nei movimenti, il PEP, Progressive Except Palestine, ed era una cosa abbastanza diffusa, no? Nella storia dei movimenti statunitensi c'è stata molta organizzazione su base identitaria, che sia persone queer, che persone nere, persone latinoamericane, persone insomma, di origine ebraica, con posizioni progressiste o liberali. Era normale o comunque semi-accettato che su questione palestinese alle volte c'era un po' dell'incoerenza nella posizione rispetto a quest'altre. E questo, il genocidio in particolare, ha portato e sta portando a galla, diciamo, sì, queste discrepanze, queste incoerenze. E su questo il gruppo, in particolare JVP, ma non solo, c'è If Not Now, c'è IJAN, che sarebbe International Jewish Anti-Zionist Movement, hanno avuto comunque una parte attiva importante nell'organizzarsi su questo lavoro appunto di solidarietà con resistenza palestinese, sia sul territorio sia con legami con 48, soprattutto in Cisgiordania, sia lavorando qui, le specie JVP, proponendo un'alternativa, sia portando le criticità. JVP intendi Jewish Voice for Peace. Sì, Jewish Voice for Peace, sì. Mm-hmm. E loro, se non sbaglio, per esempio, può essere un esempio loro che nel 2016, dopo riflessione interna, prima della quale non avevano una posizione esplicitamente antisionista, nel 2016, dopo conferenze, riflessioni e quant'altro, hanno deciso di adottare una posizione esplicitamente antisionista. E parte di questo per centrare quella che è la narrativa palestinese, nel senso per mettere al centro quello che è ed è stato il sionismo per le persone palestinesi, quindi ovvero violenza, pulizia etnica, genocidio. Questo per dire che la storia, diciamo, nei movimenti, gli Stati Uniti negli ultimi anni c'è stato una sorta di risorgimento, rimessa al centro, forse più che rimessa, è stata finalmente messa al centro la questione palestinese all'interno del resto dei movimenti e del resto delle questioni politiche, che in passato la tenevano un po' separata dalle altre. È stato fatto un lavoro importante di mettere radici a livello organizzativo, con basi solide, da vari gruppi, appunto, non soltanto JVP, ma non l'unico, di lavoro, facendo appunto lavori sia di coltivazione di relazioni all'interno di varie altre comunità di attivisti nel territorio statunitense e non solo, ma anche appunto di riflessioni, di posizionamenti, di principi e di base, che poi hanno portato in un momento, contesto di un genocidio in diretta streaming, diventa sempre più impossibile riconciliare certi valori con il supporto a Israele. Appunto JVP e tutti questi vari collettivi hanno offerto appunto sono stati disposti, pronti ad accoglierli, frutto anche del lavoro che stava fatto. Un altro aspetto importante è che molti, per esempio questa è una cosa che viene detta spessa, ma mai abbastanza, tra gli anni 30 e gli anni 50, 45, tra il 30 e il 50% dei membri del Partito Comunista statunitense erano ebrei. Queste ovviamente sono delle basi organizzative importanti, è una sovrarappresentazione immensa, no? Nel senso, si va a dire addirittura che, se non sbaglio, il primo partito come ebraico era nel mondo, in quella poi lì era il Partito Comunista statunitense. Questo chiaramente poi ha avuto tante implicazioni nelle relazioni che sono andate a creare, nelle organizzazioni, quanto presenti e sovrarappresentati sono stati ebrei nei movimenti sociali statunitensi, incluso le relazioni coltivate con altre minoranze afroamericane, persone queer, persone latinoamericane, specie in città come New York, Los Angeles, Chicago. إلا غزال اللي دي جوين اللي كم محبوس بين اليمن يمن عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا لا لا بدي ملبوس بين اليمن يمن عين للهنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح زي زمان وتصير وتيجوا عنا شعبنا جبار ما نسيوا مفتاح الدار كبروا أطفال الحجار وباحوا ريحة الحارة مشتاقة أرجع عند ترابك يا أقصانا أوصل بابك ونتلاقى نحضن أهلنا Il contesto italiano, che è quello di cui posso parlare io, è molto diverso da questo punto di vista. E sia per la composizione del movimento sociale, nel senso molta presenza di persone italiane, bianche, ciò non toglie niente all'importanza di quella partecipazione, ma spesso viene con minori esperienze individuali, personali, che portano magari a una comprensione di quello che vuol dire vivere come una minoranza in un contesto europeo. E inoltre, appunto, lo sappiamo tutte, quanta poca alle volte riflessione c'è su il colonialismo italiano, e non solamente la storia, ma anche le conseguenze sociali che dal si può manifestare nel razzismo, si può manifestare in microaggressioni o quant'altro. E all'interno di questo contesto c'è anche chiaramente una maggiore presenza sentita anche di antisemitismo. E questo un po' cambia, secondo me, questioni importanti e anche a cui tocca fare filare una linea molto sottile tra, da un lato, non chiudersi del tutto verso una comunità ebraica in Italia, dove c'è pochissime persone e che comunque vivono con un timore di un antisemitismo che è anche in crescita, e dall'altro appunto un movimento per la Palestina che, per quanto nel suo ethos c'è poco da discutere, un genocidio è un genocidio e c'è da fare qualsiasi cosa possibile per contrastarlo in quel che ci rimane, però anche che nel quale esiste un antisemitismo poco affrontato, e questo non è sempre facile, e c'è chi ha più o meno la pelle spessa per starci dentro, e c'è chi è più o meno tollerante di riflessioni, e questo no. Poi è un lavoro collettivo quello anche di capire cos'è, come si manifesta, come si vede questo antisemitismo che realmente esiste rispetto a quelle che sono le strumentalizzazioni di un antisemitismo creato e immaginato ai fini che tutti sappiamo di legittimare critiche allo Stato di Israele o semplicemente attaccare chi sostiene la Palestina. Sì, esatto, purtroppo questa tendenza di affiancare l'antisemitismo all'antisionismo è una tendenza che appunto sta emergendo sia in Europa sia negli Stati Uniti, sta emergendo da tantissimi decenni, però insomma nell'ultimo periodo sicuramente la repressione e l'inasprimento verso gli attivisti è sempre più forte e sempre più repressivo. ما بعتي منكي للكم خلعة ولا لا لا لا بدي زنار بين ليل اليمن يمن حين ليل الهنا يا روح إلا غزال ليل اللي دي جوين ليل اللي كم محبوس بين ليل اليمن يمن حين ليل الهنا يا روح ما بعتي منكي للكم خلعة ولا لا بدي ملبوس بين ليل اليمن يمن عين ليل الهنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة منرجع زي زمان وتصير وتيجوا عنا شعبنا جبار ما نسيوا مفتاح الدار كبروا أطفال الحجار وباحوا ريحة الحارة Nelle conclusioni Manny ci informa sul collettivo ebraico di cui lui fa parte, quali sono i loro principi e che cosa li caratterizza. Colgo l'occasione, visto che ci siamo, che nel panorama politico, insomma, solidale per la Palestina in Italia e in generale, per poi insomma si aggiunge un nuovo collettivo anche a quelle voci ebraiche dissidenti che già esistono, che vorrei anche citare Tolea, laboratorio ebraico antirazzista, no, ha tante voci dentro di sé e porta avanti comunque da tempo un attivismo contro il genocidio, contro l'occupazione, contro l'apartheid. E a questo panorama politico si aggiunge un altro collettivo che si chiama Tikkun. Mi permetti, leggo, siamo ancora, insomma, è una cosa nuova e ne faccio parte anch'io, leggo parte dell'introduzione. Allora, Tikkun, diaspora ebraica decoloniale. Siamo un collettivo ebraico che rivendica un'ebraicità diasporica adottando una prospettiva di liberazione collettiva inequivocabilmente decoloniale, antirazzista, transfemminista e dunque antisionista. Di fronte al genocidio in corso e alle politiche di apartheid e pulizia etnica che perdurano da anni a danno di palestinesi, utilizziamo le nostre voci per unirci alla lotta per la liberazione della Palestina, affinché siano garantiti il diritto al ritorno delle profughe, giustizia sociale e parità di diritti per tutte le abitanti dal fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo. Intendiamo il sionismo per ciò che rappresenta per il popolo palestinese, un violento progetto basato su un'ideologia etno-suprematista che si inserisce dentro la storia del colonialismo di insediamento europeo. Comprendiamo il nostro antisionismo come parte di un'ampia prospettiva anticoloniale che collochiamo dentro una lunga tradizione di resistenza ebraica contro secoli di oppressione sistematica. In Italia questo ci porta ad adottare una prospettiva che mette al centro la spesso elusa storia coloniale italiana, di cui il razzismo di Stato, che oggi si manifesta attraverso CPR e le morti nel Mediterraneo, e il sostegno alle politiche genocidari a Gaza e nel sud globale, risultano una coerente continuazione storica. E combattiamo l'antisemitismo, presente in ogni colore politico nelle società che attraversiamo, come parte integrante di questa storia, e ci opponiamo alle sue definizioni strumentali entro un discorso che promuove la dilagante islamofobia e repressione del dissenso palestinese, del dissenso pro-palestinese. Pur esistendo nelle nostre molteplici identità, convergiamo in quanto ebree per opporci alle strumentalizzazioni di cui sono fatte oggetto le nostre storie, volte a promuovere la falsa concezione secondo cui la sicurezza ebraica debba dipendere dalla perpetua oppressione di palestinesi da parte di uno Stato etnonazionalista. لو مرة بس تخفي بروحي المتعبة لو مرة بس يرتاحي لي بأرضك غفا لو مرة بس ترتاحي من بطش العدا لو مرة بس نفتاكي بأغلى ممتلى كنتي ولا زلتي أنا يا غزتي يا جمرتي نالو من طلوعك وأنا كرث الحزن اللي بخاطري يمكن إذا غال الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب ظلم ليك المعتدي يا دمعنا بعيني رفح يما الدمع لما نزح طلت ضحى طلت شهيد حتى الفرح كرب وجرح لما الحزن بالعشق يجوز كيف الحزن بغلى وطول أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب يا غزة أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط Come vi abbiamo annunciato nell'introduzione, il 12 e 13 aprile a Bologna si è tenuta l'Assemblea Nazionale di Assopace Palestina. Come abbiamo detto, ci sono stati importanti interventi di cui vi parleremo nelle prossime trasmissioni. Tra i progetti di attualità abbiamo intervistato per questo Carla Biavati, che ci parla del progetto FASA, campagna internazionale per la protezione della popolazione civile palestinese. L'assemblea annuale si è poi chiusa con la richiesta che l'Italia sospenda immediatamente i rapporti di associazione Unione Europea-Israele. Buongiorno Carla, sono Gianna di Buongiorno Palestina, una trasmissione su Radio Wombat che va in onda due volte al mese, il mercoledì alle 17.30. Assopace Palestina ha promosso in Italia una campagna internazionale per la protezione della popolazione civile palestinese. Vorrei che tu ce ne parlassi, a cominciare dal nome, dal significato di questo nome, che è il titolo della campagna. Certo, buongiorno, mi chiamo Carla Biavati e volevo dire che Farra è una parola araba che significa rinforzo e aiuto diretto e quindi è stata scelta dai palestinesi per intitolare la campagna dove le persone da tutto il mondo vanno ad aiutare la popolazione più minacciata, cioè quella dell'area C. Come sapete, le divisioni dopo gli accordi di Oslo hanno fatto sì che un'area, quella rurale, fatta dalle campagne, i poteri, fosse definita area C e sotto il diretto controllo dell'esercito israeliano. Ovviamente quest'area ha la più grande estensione di colonie illegali. Le colonie illegali sono quelle zone che vengono rubate alla popolazione palestinese, dove vengono fatti insediamenti dei cittadini di Israele che si spostano nelle zone dei territori occupati, protetti dall'esercito, fortificati, e rubano risorse e in più ultimamente, con l'avvento di una teologia messianica che dice che la terra sacra di Israele va pulita da persone che non sono della terra sacra di Israele, cacciano e fanno pulizia etnica in modo violento nei confronti degli abitanti della zona e quindi questa campagna cerca di aiutare con l'intervento di volontari internazionali, persone normalissime, e mitigare la violenza di questi coloni che vogliono sradicare le popolazioni dalle zone. Ovviamente noi lavoriamo senza armi e non siamo inquadrati in nessun tipo di dinamica, da brigata, però i palestinesi che fanno resistenza non violenta da 70 anni sanno come usarci, nel senso noi accompagniamo i pastori nelle vallate in un buon numero, accompagniamo le famiglie che devono portare a scuola i bambini, accompagniamo le famiglie che fanno la raccolta delle olive nei loro territori e svolgiamo tutte quelle azioni che da soli li renderebbero un bersaglio facilissimo nei confronti dei coloni armati. Perché? La deterrenza è questa. Noi come internazionali siamo sottoposti alla legge civile, certo, mentre loro in area C sono sotto legge militare. Quindi se io filmo un'azione che fa vedere coloni che mi aggrediscono e ci aggrediscono insieme alle famiglie, posso portare questo davanti a un giudice e denunciare le persone se ne vengo a conoscenza. E questo fa la differenza, nel senso che i coloni che lo sanno, quando ci sono persone internazionali, mitigano un poco. Ovviamente se siamo dei buoni numeri, questa mitigazione è effettiva. Può capitare che ci siano state aggressioni nei confronti di volontari con pastori in zone isolate, però fino adesso, inshallah, detto all'araba, non ci sono stati delle aggressioni mortali per nessuno. Questa è una buona. Neanche arresti, neanche espulsioni, però la situazione è grave, quindi c'è un minimo di rischio che bisogna tenere in conto. Però gli amici palestinesi che ci conoscono da tanti anni, più di 20 anni di pratiche di presenza internazionale, sanno benissimo che io, che ho 70 anni, non potrò fare l'aiuto al pastore nelle valli, ma mi fanno fare l'aiuto alle famiglie nei paesi. Quindi ognuno viene protetto. Non è una azione spericolata, è un'azione mirata a fare vedere la presenza internazionale come tale, a seconda delle nostre capacità, si utilizzano al meglio, proteggendosi sempre. Sì, questo è molto utile, infatti stavo per farti la domanda a cui hai già risposto: chi può partecipare e come avere maggiori informazioni su come si svolge appunto questa protezione. Io allora ti volevo chiedere anche con quali adesioni Assopace Palestina ha presentato questa campagna ora, perché oltre a Assopace ci sono altre associazioni che si sono... Assolutamente. Allora, storicamente questa presenza internazionale, la più famosa delle organizzazioni, è l'Operazione Colomba dell'Associazione Cristiana Papa Giovanni XXIII di Rimini, che da più di 20 anni opera nella zona delle colline a sud di Hebron, quella che adesso viene chiamata Massafer Yatta. Massafer vorrebbe dire zona in arabo, Yatta, della città di Yatta, che è il capoluogo e che è sotto minaccia di evacuazione forzata da parte di esercito e coloni. Questo è stato ben presentato nel film che ha vinto l'Oscar come documentario quest'anno, che si chiama No Other Land, e fa vedere la situazione in quella zona. I volontari di Operazione Colomba adesso operano insieme ai volontari di Mediterranea Saving Humans, che è un'associazione nata per il soccorso dei migranti in mare e che ha deciso di partecipare attivamente anche alla protezione dei civili nelle zone minacciate dell'area C, e quindi una delle associazioni mediterranee. Poi abbiamo anche un Ponte Per, un'associazione basata soprattutto a Roma, ma con gruppi in tutta Italia, che collabora e addirittura cerca di fare le assicurazioni per ogni volontario, adesso con i fondi di tutte, a sua parte Palestina Mediterranea. Un Ponte Per si sta lavorando, e anche Pax Christi International e Pax Christi Italia hanno collaborato per il reperimento dei fondi per finanziare la campagna FASA. C'è anche dunque Gaza Freestyle, leggo sul volantino, e anche l'ARCI? Anche l'ARCI ha dato diciamo finanziamenti per ora, poi pian piano vediamo se tramite ci siano anche dei volontari dell'ARCI. Gaza Freestyle certamente, ovviamente. Purtroppo loro spererebbero di fare questa campagna anche a Gaza, ma data la situazione non è possibile far entrare nessuno per ora, però siamo in contatto e collegamento, e anche loro hanno sostenuto e sostengono attivamente la campagna di reperimento di volontari. Sì, cioè, ho letto anche Cultura è libertà di Alessandra Mecozzi, me lo confermi? Sì. Assolutamente. Adesso Alessandra Mecozzi, non si dovrebbe dire, speriamo, ma Alessandra Mecozzi partecipa alla campagna. Dovete scrivere fazza3a.italia@gmail.com. Sì, questo è anche sul volantino che manderemo, che metteremo nel blog. نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت. Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Palestinian Dabke, Umud, Palestine Biledi e per finire Dana Sala in Yatalin. Era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione il 30 aprile sempre alle 17:30 sempre su Radio Wombat. Inshallah. Jump, jump, jump, jump, jump.